Lu, mi senti? Gio Maria, Figaro, Figaro. Gio Maria. Gio Maria, dormito sì. Oh, Graziano! È dormito! Gio Maria! Tesorino! Luca! Graziano! Luca, ci sei? Graziano! Peppa! Peppino! Sì, ci sei! Peppa! Peppa! Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! A 2:30. A 2:30? E come mai? Adesso. Beh, lo sai che l'ha regolata, Io non ho. È proprio un tessere a vedere un po'. Se è negativo o positivo il PL. Allora, la stazione è a posto. Adesso non ho detto fuori, non fa, domani la provo, ma non penso sia PL. Io non ci posso dire niente perché come me l'ha fatta, l'ho fatta, già l'hai vista davvero, l'ho messa lì e non l'ho toccata, capito? Per cui dice che l'ha posso, strano è. E controlla la domanda, infatti adesso c'è molto vento, perché no, non conviene esce a fura, per carità, cazzo, l'acqua di un malanno. Domani se no c'è vento te la guardi, dai. Ma infatti la lascio così, se no ne la buco, se non riesco a tararla, perché il cavo l'ho messo così a 8,48 m. Ma io non ho mai misurato anche. Capo, capito? Sto per io fatto così, tanti mentre ce ne vuole tanto, intanto l'ho messo, sempre bene. Adesso non lo so, lui. Prova a vedere un po', dai, domani provala e vedo un po' com'è la situazione. È Claudio ti sente bene a quanto ho sentito. Cosa mi sente bene? Santiago 8. Allora, se abito il PL, a lui lo sento segnali 1-2, 1-2. Se lo mollo, mi sale quasi a 9. Certo. E controlla lui. Controlla voi, basta fare passaggi corti, non succede niente, capito? Passaggi, bisogna farli corti e va bene ugualmente, capito? Perché se va in trasmissione è perfetta l'antenna, vai, magari la ricezione, è bella la ricezione, sei tranquillo per la ricezione, capito? Ma io ti arrivo bene a te, sì? Catta, a me va bene, sì. Vabbè, ma è lontananza alla fine, vabbè, adesso vedo questi giorni cosa fare. I controlli bisogna fare più lontano, capito? Io ripeto, i segnali forti li sento un po' strano, capito? Poi se quelli di vicino, magari quelli lontani invece li sento bene, perfetto e tutto, capito? Così che fa anche questi scherzi, capito? Va a comprare le frequenze. Un giramento di scatola, invece da casa in questa frequenza mi sentivi ieri? A me non ti sentivo, ti sentivo sì. Ah, vabbè. Grazie allo cuffo non mi sentiva. Mi sentiva a basso, mi ha detto. Vabbè, lui era con lo portatile. Col portatile, lo sai com'è. Se ti avevo quel portatile l'altro giorno, quello va, Cazzo, quello ti sentivo a carica, catta, e ti sentivo perfetto, perfetto. E a me la mente è perfetto. E anche questa antenna non si può tarare, questa che mi ha dato tu. Ma l'aveva già tarata, l'aveva, non capisco, però per cui a me me l'ha data così, dice che era tutto a posto. Altro, non ti posso dire altro, lui. Cazzo, là ci abbiamo quattro, gatto, tutte e quattro, una invece dell'altra, vai secca tu. Gingo! Oh, Gian Maria, a me la mettermi perfetto. Ehi, gatto, tu sei retugato, ma tu sei. E qua ti sento bene, sì. Capito? Qua arrivate tutti bene, gatta. Pure da Marta arrivano bene qua. Peppa, caggiù, riprendilo. Sì, Lugani, cosa vuoi? Cosa vuoi? Mamma sta aspettando, Aspettando la mamma, il cane. Vedo un casino, va. Bel casino. Devo essere tornata piazzata. Mi ti mando la foto, Gio Mariesi. Io qua c'ho stazionario al nastro, Però, su questo non ne ho stazionario, Qua va bene, uno è a che cosa. Per cui, ma sulla 27 qua, a fondo scala stazionario. Meno male che c'ho l'accordatore, se no è andato di fumo tutto. Sì, guarda che hai trovato la foto. Adesso la guardo, va. Paro, Gio Maria, a me te. Cazzo, prova con l'altro a vedere un po' com'è. Gio Maria. Ma le senti, va la soria. Oh, chi se lo mi intende? Paro, Paro, Oh, lui. Cazzo, ma lui non mi sente. Non mi sente. Sei già corrispondenti. Adesso mi ha risposto. Ma se no non ti sento. Io controllo bene il microfono, io. Catta, chi non... Al momento ti sento, mi mettirò. No, Mari. Drinkili. E che sono grogheri. Se la mettete, sono con loro a rispondenti. Se sono con rispondenti, vuol dire che ti intendono. Sto qui a Platamona. A Buduso, sì. Ma quale c'hai il portatile? Peppa! Te lo dico se non mi rispondi. Manuel! Luca! Che non si barri d'uscia! Luca! Manuel! Andiamo! Certo! Luca! A Gio Mari! Che barri d'uscia! Non la parte per mettere dritta! Barri d'uscia! Chi me la giubbotta, Gio Mari? Un po' come l'ha pigiata, E questo me l'ha piegata un po', Gio Mari. Siamo di vento qua. Stasera ce n'è parecchio. Vabbè. A dritta tragando per vento. Gio Mari, purtroppo non posso, non ho altre alternative, ma se mi fa questo problema, cosa tengo a fare? Vabbè, la lascio così. Che mi sente, non mi sente più giubbaetto. Me ti sento, sento da me. Cazzo, però mi sento a dritto ed esco con quella tele precisa, quella lì. Fra 5 minuti, no? Ho capito, Gio Mari. Adesso vado dall'altra parte, con quella posso chiacchierare, capito? Qua no, qua è 27 disturbo, mentre che là invece non disturbo. Adesso me ne vado in quell'altra camera, capito? Lì non disturbo. Ah, ok, dai, va bene. Tocca, tocca. Allora, Ciao Mari, cosa c'hai? E cosa stai facendo? Ma che non mi rispondi quando ti chiamo? Boh, è un tentaccio di Parigi. Ma se stavo sempre che rispondevo, mi intendi allora? Cosa ti intendia? Io quando mi chiamavi ti rispondia. Boh, strano, Giovanni, tu stai parlando con un altro e non lo sentivo neanche. Bah. E allora? Qua ci sta marcato. Beh, provato lei la quella. E questo qui è. Ah, io sono dall'altra parte, così che arriva a fondo scala. E questo qui, come mi ascolti, bene? Io lo credo questo. Benissimo, è a fondo scala. E beh, anda bene mera. Eia. Per carità, ragazzi, non mi ha detto che fai. Sì, già si è calmato un po', ha detto che ha posto temporale, canuto. A saffare. Già faccio la baracca, Marisa. La baracca. E allora? E casa avete solo una dozzina, per cui si fa sempre un trentino che sta facendo la baracca. Marino, non sentite. No, sta ascoltando, ma non l'ho sentito, Ha detto che entrava. Ma adesso, che ora sto? Dovrebbe entrare fra poco, Un secondo, Emanuele. Eccoci qua. Giovanni. Va bene quella Gigino, caccia. Ecco, metti. Fanno bene. Caccia. A voglia. E io sono comunque con l'antenino come quello del magazzino. Grazie. Quando scala, Matteo. Ma tu sei con l'antenna sua, sì? Sì, con l'antenna in gomma. Cosa vuoi pretendere? No, ma fanno bene poi, là. A voglio, Iclata. Lo so, e se non l'avevi abbigliato, capito? Fanno benissimo. Ma il microfono attaccato gliela, abbassi, infilalo bene, perché se quello se va proprio dentro non funziona, Lo so, Giovanni, non l'ho provato, cosa lo provo a fare, quello va bene per le stesse macchine. Infatti, in macchina va benissimo. Bene, e allora ci mi racconti? Ero con Tonino poco fa. E sono rientrato un'ora fa, Giovanni, perché dovevo spiegare delle cose e sono arrivato un'oretta fa. Io mi sono fatto una dormita, mi sono alzato, infatti ho acceso e stavo ascoltando, capito, perché non mi ha chiamato Luca, allora ho risposto, ma era in ascolto, capito? Ma era in cameretta, capito? Comunque, niente. Per fare queste commissioni qua, sono andato a fare compagnia, sono uscito verso le 3, per arrivare tu, un'ora fa. Mi ha detto di entrare stasera, se c'ha voglia. Almeno si ammazza il tempo, capito? Hai ragione, poi sta sempre la giura di casa, ma... Che ti ha fatto bene, sei uscito, una chiacchieratina e ammazzi dura, capito? Sono tutti buoni, mio Giovanni, come ti vai? Macello, è poco e brutto a me da solo, però uno si deve abituare, per cui va bene ugualmente, dai, piano piano si fa fatto, senza pensieri, senza niente, Bruno, non ti credi che è brutto, quando c'era una certa età, sì, c'era un altro discorso, però perlomeno si sta bene, dai. E in da ragione, va, per carità. E io, e me, adesso domani mattina dobbiamo uscire di nuovo. Devo far pigliare un'altra cosa, cazzo, un macello, cazzo, sono già lì, cazzo, può fare tanto video completo, la dice, ci facciamo. Oh, già io, domani andai da, sempre componente, boh. Sei due sempre componenti. Sì, sì. E c'è che rimane di senza, Oh, vabbè, che non siamo mai a ragione noi, siamo sempre in compagnia e forse pochissimo. Allora, vedo così. Vedo così, così. Ma cammina ancora. Ah? Ancora cammina noi. Ho capito. Ma tu sei tanto una capita. Allora per la Lucca del Monte, sempre qua in PMR. Siccome l'ho dato con l'antenna che voleva, e ha detto che c'è un bel stazionario, è un strano. E se quello là l'ha messo a posto bene, dice 1-1, e a lui gli dà tanto di stazionari, boh. Però Claudio lo sentiva benissimo, capito? E per cui dice che doveva rifare il PL, doveva rifare, che forse c'era qualche cosa in ricezione che non andava con l'antenna, capito? Boh, con l'antenna l'aveva calata ed era 1-1 adesso, 1-1, 1-2. Comunque quelle antenne lì, Giovanni, se non tagli il cavo, si dà stazionarie. Io quando l'avevo messa c'avevo 30 metri di cavo e c'avevo 1-1 di stazionarie. Ma era sempre piazzata quella lì, Emanuele, qua. E stazionarie non ce n'erano. C'era 1-1-1, era sempre, ma era vecchia Sommo 27, capito? Era Sommo vecchia, che nel tenere quando l'avevo presa da cosa, dalla GBC, un bel d'anni fa, un bel d'anni fa l'avevo presa. E per cui io, l'ho data che infatti i stazionari non mi dava quell'antenna, ma queste che ho preso nuove, quelle due che ho preso da Mazzoni, cazzo, arrivava anche sullo strumento di Lucca, che aveva 20, su 24 MHz, puoi immaginare, ed era più di 13 stazionari. Ne ho preso altri due dalla GBC, dopo quelle, cazzo, e lo stesso un bel di stazionari. Ma allora hanno cambiato ditte, hanno fatto un casino, invece, ed è la Sommo quella che l'ho dato. Strano proprio. Già lo so che era sempre la marca della Sol. Ma non valgono nulla, quelle antenne lì sono antenne da camper, sono antenne da camper. Non sono antenne per mettere in casa, sul tetto, e neanche nel balcone, che non servono a nulla. Quelle sono antenne lasciate che non ci sia nessun ostacolo davanti. Beh, io cosa faccio? Io prima ce l'avevo piazzata e per cui andava bene, benissimo. Stazione ce n'era uno sempre. Dunque c'avevo 18, quasi 18 metri di cavo. Era sempre piazzata, stazionale ce ne sono, finché io l'ho tolta, che dopo l'ho data a te, non ce n'erano stazionari, era 1-1 e basta. Come mai adesso hanno aumentato le stazionari e lo stesso cavo? Domani, non lo so come mai, non lo so perché, non so cosa dirti, non lo so sinceramente, non lo so, è un mistero questa antenna qua, che antenne sono, un mistero. E infatti adesso sto usando una di quelle, sto usando, capito? Qua sto usando una di quelle antenne, capito? Qua già lo sai quale antenna c'è, però là sulla 27, c'ho anzi no, dentro ce l'ho, ho qua ce l'ho, anzi qua ce l'ho quell'antenna lì, mentre che quell'antenna che abbiamo passato ultimamente ce l'ho in cameretta, capito? Ma anche lì ci sono stazionari, mi sembra che sia 1,3 e 1,4, capito? Ma potrebbe andare bene perché già c'è anche l'accordatore, per cui va bene, capito? E qua c'è questa che mi ha riparato Luca, e ci sono una serie di stazionari. Però io c'ho l'accordatore anche qua. Sì, ma è cazzo, è troppo stazionale, troppo una... non sono antenne adatte per... sono antenne da... per carità. Non sono antenne da comprare quelle, Giovanni. Con quei soldi lì che hai speso per quelle antenne lì, si è uscita un'antenna, una signora antenna. Sì, perché io ho fatto male a togliere la mantola, là. Sì, dovevo buttarla in terra e cambiare i tiranti nuovi, d'accordo, ce l'avevo, però ero sempre un po', insomma, succede sempre, ma per il temporale, cazzo, mi fa la quasi danno, capito? Ecco, perché io l'ho tolta per quello, perché cazzo, ho visto che si è rotto un tirante, cazzo, allora mi sono spaventato, così mi fa l'altro. Cazzo, per un vento forte ne va la fase danno. Ecco perché l'ho buttata giù l'antenna. Se no non avrei buttata, capito? Però ho fatto male, io dovevo buttarla giù e mettere i tiranti nuovi, cazzo, già li avevo comprati, e rimetterla di nuovo su. Boh, beh, ho fatto errore, però adesso non ne piazzo più, no. No, lascio quella, abbiamo piazzato ultimamente. Tanto per quello che la uso io va benissimo, capito? Giomari, 40 anni, in 40 anni non è falata e mi parava, non scendeva 40 anni, perché era ben piazzata 40 anni. Magari avevi cazzo che si aggana a fumare che vai tu a punirla. La so che ha fatto male a buttarla giù, dovevo piazza metterci le corde, infatti prima di buttarla in terra ho preso le corde più grosse, perché quello che c'era non era male, era una vecchia, e poi la seccava, capito? Mentre queste nuove che ho preso, cazzo, erano nuove, per cui corde buone. Ma che ho fatto, io non ci ho rimesso le corde, le ho rimesse su, capito? Ho fatto un errore, però ormai non ne metto più altre così là. Lascio quella che c'è adesso e mi fa bene così. Tanto io ci parlo poco, per cui va benissimo, ecco. Io già la uso poco, per cui anche se ci sono stazionari, là non posso parlare perché disturbo. Qua invece sono con quella piccola e non disturbo, sono tranquillo, capito? Se non parlo là, parlo qua, è la stessa cosa, capito? Ma ti stavo dicendo, come segnale, te l'avevi fatto dare un controllo come usciva quell'antenna lì, se usciva meglio di quella là oppure lo stesso? Allora, io controllo, avevo fatto così, volante, non è che abbia chiesto controllo, ma mi sentivo bene, e ho provato, mi sentiva bene Giulio, mi sentiva bene Claudio, e mi sentiva bene anche Marino, e boh, basta, non ho... dice che arrivava bene. Boh, e poi non ci ho parlato più, capito? Ma dovevi fare praticamente dovevi provare sia una che l'altra a vedere se cambiava il segnale, quanto cambiava, capito? Cioè da una all'altra, cazzo, il segnale cambia, va bene, c'era una solo la antenna, anche qua c'era una solo, come faccio io a fare la comunicazione da un'antenna all'altra? Dovevo fare un cavo da qua a cameretta, allora sì, potevo fare due aveva chiesto due segnali, sia una che l'altra, capito? Ma c'è solo quella lì attaccata e basta, capito? Capito, sopramodati siamo. Ah no, cioè a me sembra che c'è Bacchisio o Giomari. Sicuro che sono io, buonasera a Ginko, buonasera anche a Giomaria, avanti. Oh, Bacchi, buonasera. Ben sentito Bacchi. Accene il vento, accene. Vento, sto vendendo il vento, io sto vendendo il vento. Mi è un bel po' da vendere. Chi è che ne vuole? A barato, pregio. No, vabbè, l'importante è che lo si porti via le antenne. È quello che conta, Bacchi. Non so se mi ascolta Bacchisio. Bacchi, mi ascolti, comunque buonasera. Buonasera, Ginko, non ti ascoltano. Dove sei? Sotto il letto? Il gommino sto usando, dai. Il gommino sto usando, ho capito. Ah, invece sento il gommone, tu nel gommino. Senti il gommone, a parte scherzi. Mi ascolti bene, Bacchi? Lo stesso segnale di Giomaria, uguale. Mi ascolti bene? Chi è che ti ascolto bene? Ti ho detto lo stesso segnale di Giomaria. E allora gli andava Giomaria, andava un buon po'. Per un po' io sono con l'antennino interno lo stesso, puoi immaginare. Ma siccome lo so, Emanuele, se non te l'avrei detto. Così che arrivi bene, va benissimo. Tore, signor Bacchi, non l'hai sentito? Tore, niente, Tore gira il funerale. Dunque, non penso che sia arrivato. No, era le 4, dovrebbe essere già finito. Sono le 7. Ce l'hai in ascolto. Ho capito. E la sabara fa sentire, va. Entra senz'altro dopo. Vai, Emanuele. Bacchi, ti volevo chiedere, a Giammarino non l'hai sentito? Lino? No, stasera no. Stasera non l'ho sentito. E poi ti spiega Marino, non fa parlare qua. E c'ha questi due piedini qui. È da farli la misura e i buchi. Poi già te lo dice lui. Perché li ha portati qui stamattina, ma no, non andavano bene. Sono diversi. E quindi mi fa Marino, dai, in caso di facciamo la modifica e gliele facciamo adattare. E glielo diciamo a Bacchise se li fa. Non so, saldarli, boh, non lo so. Ma cosa si deve mettere sopra? Sono due pirini di televisore. Solo che non sono di quel modello lì, sono diversi. Sono da fare la modifica con due staffe, no? E da saldargli e farli buchi, perché ha preso le misure lui, Marino. Lì davemmo, se ha preso le misure Marino abbiamo già fallito, Emanuele. Allora, avevo già sbagliato. Vai già Marino. Fate buchi, mi raccomando. che staffa dovete saldare? Mi aveva portato due piedini, Giomari, due piedini di televisione, però non vanno bene, sono diversi, capito? In pratica quelli che ci vanno sono quelli con la staffa, invece questi qui erano senza staffa. E lui c'ha due staffe, ha detto che gli vuole fare la modifica, che lo diceva Bacchisio, che ha preso le misure e tutto quanto per i buchi. Ah, e allora gli faccio la palla. Bacchisio è un maestro di queste cose, per cui li fa ben volentieri, vero no, Bacchisio? E facciamo, quando sono in sud, diciamo, si fa quelle altro. Solo bisogna avere i buchi, se deve essere perfetti. E poi quanto sono grossi, Emanuele, questi buchi? Da quanti millimetri vogliono? Le staffe? Allora, quanti millimetri è quella che c'hai tu, Giomari, sul suo palco? La più grossa? Così, il televisore? Cos'è? Non ho capito, non ho afferrato la questione. Ho detto, quella stampa che c'è tu sul suo palco, quanti millimetri è, Giomari? Non quella fine, l'altra. Boh, non so quanto è, però non lo so, bisogna misurare. E comunque non è tanto flessibile, dai. E si può dire che è un po' più grossa di quella dell'antenna che avevi fatto, Bacchi. Andiamo, catta. Io ho capito. Ciao Bacchi, andiamo. Andiamo. Male andiamo, capito Manuel? Bisogna avere tutto fra le mani. E adesso dicendolo che ti veda Marino. Mi sembra che c'è Marino, no? Non ho sentito. Marino. Sta arrivando Tore qua, o Bacchi. Tore è arrivato. Ti stava chiamando il 27. Manuel. E Mari. Paolo, Petro stai prendendo? Ello? No, ti interrazio, addrizza l'antenna. E allora, tanto. Aspetta, per stare giù, beh. Perché tu buro, Vai, Bacchi. Vediamo un po' se c'è Tore. Dai, sta facendo il birichino, no? Ma sta facendo lui il birichino, ma se vuole c'è anche Marino. No, non c'è Marino, no. Se no avrebbe risposto. Mari! Ce n'ho in 27, adesso te lo chiamiamo in 27, va bene. Vai lui. Ehi, aia. Fame c'ho Gio Mari, fame. È andato 8:30, poi mangio un brima. Manna don Boi, buonasera a tutti, manna don Boi. Porno. Andiamo, cosa hai detto tu? Ah, manna don Boi. Buonasera signor Tore, buonasera anche a Luca. Buonasera signor Bacchi. Buonasera Gio Maria. Luca, ma l'hai compreso? Un bue mangiati. Ciao Tore, beh. Sì, che sta anche Manuele. E devi attenersi al sciroppo di mais. Che pizza. Anche troppo voce. No, anche se no rifugire giù l'antenna. E te sai, non riprende. Riprende, Bacchi, riprende, dai. Mucca, ciao Tom, buonasera, ben sentito. Adelante, Bacchi. Ehi, Marmorino vuol dire che è impegnato. Senz'altro, ma entra, ancora è fresco. Sono le ultime, meno 20 appena, per cui, anzi, meno 25, è presto ancora. Già entra, se non sta facendo buchi, già entra. Vediamo questi buchi. Avanti, Emanuele. Poveretto, cattata. Chi si deve sfogare? Non so, per i buchi, Buchi grandi, buchi piccoli. Signore! E lui, andiamo. Ah, noi andiamo sempre verso, mai male, gatta, io. Ti ha detto, noi andiamo sempre verso, mai male. Tu fa vedere così. Anche non lo sai cosa vuol dire. Se no, vi visto. Vabbè. Pazienza, dai. Andiamo bene, vero signor Bacchi? Bacchi, cioè, è trecchendo una goccia d'acqua che c'ha la gola secca. Vito hai, Gio Mari, vento, sto vendendo, torre non ne vuoi. Ah, così è, to, vero è. Che cosa? Era Bacchi, io. Cos'è che stai vendendo? Vento sto vendendo, ho barato. Ma guarda, se vuoi te ne do un po'. Andiamo. Tore, vento ce n'è da te. Sì, un pochino ce n'è. Ma ho sceso il cane, però freddo non ce n'è, è solo il vento che dà fastidio, però freddo non ce n'è. Però da domani a mangiare arriverevo a Buru. A fase in terra. Che voce. Se le millevo, a manco si fondi i moribidi. Però mi faccio la baracqua io. E tanto, stasera un mezzaibro d'arriva me l'hai barrato. Ah, balla sorriglia. Cosa è Gianmarì, cos'è? Cosa ti è successo, signor Bacchi? Marino, dai, facciate cosa? Non ci ho compreso. Ho detto, Marino, cosa dai facciato? Marino, c'è dormito. Dormito, vai. E peggio baedo, non sai cosa stai perdendo? Allora, cominciava a fare vita, c'è una gana. Ma dico, sentiamo, magando, manca il telefono. Oh, io a me, dalla sadia, mi ha chiamato il telefono, poi ho sentito la sera, e poi, non l'ho sentito più. L'ho vista stamattina, era qua, che l'avevo dato quella roba e me l'ha portato, e già l'ho visto, una chiacchieratina, e era scappato via. Sì, era con me prima, ormai te si devo andare a Gianmaria, vai a Gianmaria. Sono andato a prendere il pane a luna e mi ha già avuto in bottega. Allora aspetta, anzi non c'era, è venuto e non c'ero io. Ero con la signora facendo spese. Però dopo sono arrivato e è venuto con Manuele e già mi ha trovato in casa. Ma siamo stati un pochettino dopo, è scappato, era in fretta, Sempre in fretta, sempre in un ruolo sotto i piedi, Ehi, Manuele! Sì. Ehi, con le orecchie ti sento, Andava, mi ha chiamato Torino a tu, lei, Timo. Ci dobbiamo sbrigare delle cose. Vai, siamo qua, Eppure, altri 5 minuti dopo scappo che qua non mi manca mai la gente, capito? Ogni tanto entra qualcuno, va bene, mi entra nei miei buldi e per quel pezzo va a fare un casottino che ha che cominciato a camminare la giura, se lo vedi poco di faccia il tuo ma chi riprende? Dagli un baracchino a Giammarì che si diverte, dagli un baracchino al bambino che gioca. Ma la gente mi faccia la stessa cosa, ma le baracchino le tocca. Forse mi ha compreso che mi sono combocciato avanti. Avanti, signor Toro, riprenda tutto lei. Sì, Giulia. Andiamo bene, andiamo. Non mi dice così. Quando cominciano a toccare, arriva la cebra, via i nocchi io. Ogni tanto vedo che va la radio. Poi, curiosi, no? Come stanno a camminare giù la vanno? E tutto questo vento è andato a pigliare, capito? Dove c'è sempre appressato. Dai, in caso mai rientro dopo, dai, che io faccio l'accello. Vai, Giammarì, sei in casa, non ci sentiamo. Ti saluto ugualmente. Ok, alle prossime. D'accordo, dimmi, Manuel. Aspetta che mi fai strada fino a Sassari Vecchio se mi ascolti. Mi piace, certo, proprio a te devo intendere. A chi sei? Te lo daremo tutti oggi. Dai, intanto 5 minuti sono lì, dai. In casa e mi fai sapere se mi ascolti. Va bene, dai. Ma c'è anche Bacchisettore pure, che c'è anche Luca. Luca è magna del bassaforno, guarda, attori prima. Ah, c'è la vostra domenica, una gioca e la duscia. Ma ora la gioca, ma come la fai nella macchina, con le patate e così, o a rivisare? A rivisare, Giovanni. Oh, ma io a me piace quel pezzo, con un battato. Sì, gioco con quello, misciatemi così. Mi si affonda un panino dritto, a chi ne piace affondare un bane, c'è poco a fare. Sì, è buona, sì, però mi piace da maniera di più, capito? Adesso vediamo, se un po' lo facciamo col sugo, vediamo, là. Dipende dalla signora cosa vuole fare. Ehi, avanti, certo, a te le lumache non ti piacciono. A me? No, io mangio le lumache, già ne mangio. Ugo, coi. Ah, dai che non piacciono. Oh, però periodo, primo periodo che abbia abitato in campagna, che faccio? Cazzo, fino a non bel gioco, insomma, bene, gioco con cui tu, cazzo. Ah, ma non fai manco gioco di luta, non è più, bacchi. Certo, siamo andati tutti Luca. Io mi la giovania la giusta, cazzo. Cazzo, fino a non bemmi, cazzo. Ah, ma non finire nulla, e questo il sorriso non finire nulla, tale come la fede, chissà pa' cosa, ragazzi, non finire manco una, Già siete presa che il microfono. Cos'è? Che già siete presa che il microfono. Ma è in macchina, sì. Cosa vuoi? Tu lo senti? Io sì che lo sento. Aspetta se lo sento. Vabbè. Signor Bacchito, una cosa di su. Già lo sento, Emanuele. Arriva abbastanza bene. Vai, Manuel, vai, vai. Cazzo, già va bene, già va bene. Tre pie, tre pie. Cazzo. Qua è piano però. Sono qui dove c'è la, il gommista adesso. Dove c'è la prima il gommista? Dove c'è la Kobeck? Siamo a Zibassi, ma forse intendiamo, io lo grida. Cazzo, siamo a Zibassi, diglielo a to. Aiuto che non arrivi a stessa rivece, non si fosse più. Allora, che attore lo senti tu? Sì, Giamari. Oh, cosa è? Questo è video. Ma ora stai arrivando tutto a tratti però, eh. Ehi, Emanuele, già ti ascolto, ti ascolto. Andare, ma chi? Andare. Ehi, ehi, sono con l'antennino, eh. Beh, va bene, cazzo, già. Certo, se magari gli vedi un palazzo, cazzo, non passa, perché è una frequenza balorda, chissà, un VMR, capito? Però in certi punti passa bene, a voglia. Va bene, Emanuele, va bene. Tu vieni, già vedrai, ma senti, se no mi fai saluti, no, che riprendi tutto. Sì, ok. Ti stavo dicendo, signorini, ti ascoltiamo bene, poi non lo so. Andale. Ti prendi, signor Bacchi? Sì, io riprendo io. Vediamo se mi ascolta, però, non so se mi ascolta, Emanuele. Emanuele, mi ascolti? No, vabbè, Bacchi, siamo qui. No, sei uscito a ratte. No, forse non mi ascolta più. Boh, sono ascoltato te, figo, è muzza a me. Emanuele! Ehi, attimo, sono in Corso Trinità! Saluta mio, Corso Trinità! Spesso mai? Oh, signor Bacchi! Ripiglia, ripiglia! Luca! Emanuele! Ebbo! La chiamata non risponde! Che è il mio amore di un Zonino! Ebbo, non lo so, signor Bacchi! Non lo so! Stasera ho di funerale. Io lo sapevo, è di funerale stasera. Ho trovato Antonino, il signor di coso, di Costantino. Infatti. Era alle 3:30 al funerale, c'avevo mio nipote, io ci avevo. Hai capito. Io, fatti conto, quando stavo andando dal dentista, stavano uscendo dalla messa, tutti al bar di Gianni, al bar Sanna stavano scendendo. Infatti. Vabbè, ormai è passata. Vabbè. Ui, aspetta, andiamo, dove andiamo? Attento, Emanuele, QSL. Ha detto Emanuele, non risponde a nessuno. Aspetta. Bebe. Dove? Sì, sì, dove? Aspetta, te la metto bene, era a riposo. Mi sento che sta nei palazzi, come se l'altro stiamo qua adesso. Mi sento ancora. Sì, ma te, io ti ascolto benissimo, io ti ascolto. Ma chi c'è lo stesso? Ma chi, non parli? Per Bacchi, lo ascolti? A momenti sì, a momenti no. Secondo il punto si trova, se ne va la modulazione, poi ritorna. Vediamo se mi ascolta a me. Emanuele, mi ascolti? Sì, tu sei in movimento, dunque sei in oscillazione. Ma io non ne posso dare a cosa che sono un portatile. Porta a porta sei, Zona? Sì, portatile, porta a porta, non mi attesi. Ah, ho capito, no, io sono con il portatilino, però collegato con l'antenna. Sì, anche io sono collegato con l'antenna, col portatile ho attaccato l'antenna. Ma l'antenna piccolina però, non l'antennone, l'antenna piccolina. Sì, vabbè, ma già arrivi lo stesso a loro. Sì, no, mi abbongo in macchina e arrivo. Emanuele, lascia la impulla della birra. Attore, Emanuele, mi fai male la birra. Andiamo, bene, andiamo. Buh. A chi? Andiamo, bene, andiamo, cazzo. Di lusso, Luca. Oia, bisogna i corrupti in giro. Tutti sbisati, stasera, non si può uscire. Corruti a un nastro. Sto chiudendo, Bacchi, dai, chiudo. Macello. Dai, ci sentiamo domani, se Dio vuole. Salutoni in casa. Ciao, Cantore e Luca. Cosa, Emanuele, senz'altro, non mi sente, perché io sono quarantenino interno e per cui non mi sentirà, senz'altro. Ci sentiamo domani, riprendi tu. Ok, ciao, Gio Mari. sentiamo domani, ok. Va benissimo, riprenda il signor Bacchi. Salutiamo Gian Maria, ciao Gian Maria, buona salute in casa. A risentirci domani se tutto va bene. Ok, Emanuele, vai, no, Emanuele, Luca, vai a salutare Gian Maria. Ehi, ciao Gian Maria, salutoni, dai, buona cena e buon tutto a domani se coincide. Se no alle prossime, ciao. Ok, ciao. Ok, Gian Maria. E Marino non si è affacciato poi. Sicuramente è impegnato. Sicuramente è impegnato con questo vento da bui. Non lo so che in chi si fa di qualche cosa. Io penso che l'ufficio collocamento a Becchio. Hanno qui. Vabbè, sarà impegnato, sarà. Vabbè, Luca! Ellu! Te sei già di Ellu. Pigliadina! Comunque la Rossi! Ha voglia! Abbastanza forte anche! Era già va bene, era! Pensavo... No, no, io la voglia se ci bene! Era già va bene, era! No, già eri Bacchi! Era di lusso, sempre sotto casa, sempre, quando parli tu! Tutto a bomba arrivi! No, non era male! Da casa di mamma, arriva a bomba! Arriva meglio da casa di mamma che da qui! Addirittura! È molto più forte, è molto più chiara. Meglio così allora Bacchi, meglio così. Ma su non stai usando un carruzzolo, stai usando qualcosa di grosso. Poi mi sembra che la manto o altro su. A me sto parlando in PMR. No, lascia sei in PMR, ma lo dico. Tu hai la mantova così è. Sì, la mantova 5, c'è a casa della mamma, sì. La sorella della mia. Per quello il 26 arriva abbastanza bene. Più, ripeto, meglio di quanto moduli da lì. Vabbè, qua c'è un microfono normale, l'ha amplificato. A Tore non ti ascolto, Tore, però. C'è l'antenna sorda. Io non l'ascolto io, certo, se non l'ascolto io, non l'ascolta nessuno, Edo. In PMR l'ascolti me, se l'hai sotto casa. Infatti. L'ascolto benissimo, ma anche quando è a casa sua l'ascolto bene. E anche da casa sua c'è forte in PMR, è chiaro anche, capito? Quando c'è la posizione, vuol dire 100% buona. Infatti così, vabbè, andiamo bene così. Andiamo male, andiamo. Andiamo male, sai cosa dico, adesso c'è il microfono in mano. Chiudo baracche e baracchini, mi si fa la giosso, mi piglio la medicina e poi mangiamo. Ok, Tore, ciao, salutissimi, salutami la signora, a domani, se tutto coincide ce la chiacchieriamo ancora. Ciao Luca, buona serata, saluto la signorina, a domani se coincide ce la chiacchieriamo ancora. Bene, ascolto il finalino e poi Bacchi si chiude in quel ritiro. Ok, ciao Bacchi, noi ci risentiamo domani se tutto va bene, dai, ne approfitto anch'io. E chiudo anch'io, Luca, ci risentiamo domani, alle prossime, ok, ciao. Ciao Tore, ciao Bacchino, grazie, punto da domani, ciao.